No, dall'ultima volta non si è cambiato affatto. Sono il mono, sono cambiato. Volevo dire che te amo. Tutto il tempo passato, tutti hanno ancora in fronte, face male. Lo sai, sai, tutti i momenti belli e brutti, tutti e me la fuci intorno, intorno con mia moglie. Non sto minando come a me, sai. Non andavano più, tranquilla, aspetto sempre la chiamata tua. Basta dici sì, e io sono sotto a casa. Non ce la faccio più, sto senza di te, no. Sembra che mi macchi già da modo. Basta, mi timo da parte, lo vecchio non conta. È acqua passata, guardavo lo presente, caio te odio. Basta, spostai solo questo. C'è l'amore che brucia, ogni giornata che passa la rende lo stessa. Che mi illumina, l'amore che me dai e che me in che la sera. Quando mi stai vicino io te sta sempre attaccato. Come un pedalo de rosa sullo stelo so. A me manca, ogni piccico gesto do. Di momenti belli e brutti, tutti e me la voce intorno, intorno con mia moglie. Non lo trovi in adubo, ma mi sai. Io non avevo più, tranquilla, aspetto sempre la chiamata tua. Basta dici sì, e io sono sotto a casa. Non ce la faccio più, sta senza di te, no. Sembra che mi macchi già da muto. Basta, mi timo da parte, lo vecchio non conta. È acqua passata, guardavo lo presente, caio te odio. Basta, tu sai solo questo. Lo sa già tu dentro, facime nervosisco. Non riesco a stare lontano. Quando c'è mia pena, tu ma sto fego alla passione non ci cagia. Abbracciami forte, sotto la luna piena. Non voglio un sogno, voglio quanto vivo sei. Manchi in sacco compenso, sono confuso in cialla capo. Per questo sbaglio, non riesco, sto convinto. Per ogni gesto che faccio, mi faccio male solo. E questo non bello, ehi. Se per mo non sono cambiato, volevo dire che te amo. Tutto il tempo passato, tutti hanno cuore in fronte, face male. Lo sai, sai, tutti i momenti belli e brutti, tutti e me la voce intorno, intorno con mia moglie. Già da muto, basta, mettimo da parte, lo vecchio non conta. È acqua passata, guardavo lo presente, caio te odio. Basta, gustai solo questo. E manca con un bicio la bellezza do. A me manchi, lo posto do. Stai sempre qua, lo voglio. Non ti si chiedo, per uscito do. Non te ne gire, perché faccio un soffro, sai. E dell'orgoglio maschile, capace d'offrire. La schiena di circonda, prima volta.